fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. 2.32 del mattino, sempre in diretta con Resto Radio Convento, sempre con gli ospiti di questo sabato 28 luglio del 2018. Un'altra sposa con noi, un altro modo di raccontare un po' della vita delle persone che ci vengono a trovare qui in questa serata, in tutte le serate che facciamo. Attenzione, perché questa è un'intervista che dobbiamo fare con lei, dando il dovuto rispetto a chi ci è venuto a trovare, perché altrimenti rischiamo varie denunce, insomma rischiamo la galera anche probabilmente, e lo scopriremo nei prossimi anni, capendo che tipo di lavoro, no, non tanto lavoro farà, però che tipo di persona diventerà la nostra futura sposa. E intanto la presentiamo, benvenuta. Ciao a tutti, sono Valentina da Legnago. Che è a Verona, diciamolo per esatto. Tutto il mondo. Legnago è a Verona, Legnano è a Milano, esatto. Che è importante. Legnago è importante. Questo ve lo dico non tanto perché siete ignoranti voi, quanto perché sono io il primo ignorante, perché chiaramente Legnago, oh Milano, bello Legnago, Milano. No, Legnago sta a Verona. Ok, allora, cosa festeggi qui questa sera con noi? Il mio addio nubilato con le mie amiche. Oh, bene, bene, bene. Addio nubilato colorato, da quanto vedo, perché è anche vestita tutta di giallo. No, in realtà a parte è la gonna. Mamma che mi ha messo questa maglietta. Ah, vedi, il cuore di mamma che... Ha recuperato questa maglietta che non mettevo da anni, come dicevo a loro. E beh, è giusto. Ma la cravatta c'entra o l'avete trovata per strada? Bisogna chiedere a loro. Eh no, nel senso, volevo capire se il coordinato cravatta oro maglia gialla era previsto con un accordo scritto con la mamma oppure no. Assolutamente no. Ah, è stato casuale, vedi. Casuale stasera. Vedi i destini della vita, bene, bene, mi fa piacere. Quindi... Però, scusami, sono queste rose. Ah, non le avevo viste. Le, cos'è? No, sono zoccole? Sono ciabatte. Ah, ciabatte, sì, sì. Mi hanno preso. Ma sono dure sotto. Sono dure, mi pare, sì. È tipo zoccoletti. Esatto. Però sono molto fashion. Ah no, sono di gomma. Beh, cioè, ma zoccoletto morbido. Metterò ancora. E devi metterle perché sono. Cioè, hanno la faccia proprio della comodità. Sì, sì, è da oggi alle 4, dalle 2. Immagino. Che ci sono. E poi tra l'altro col caldo che c'è, senza calze, bella, bella comoda, bella rinfrescante. Tra l'altro ciabatta che si coordina col cerchietto. Beh, vedi che no. È il rosa? È rosa? Davvero? È rosa. Ma non si direbbe. Il giallo della maglia, ma... Vabbè, è il rosa, ci sta. Il rosa, che è un colore chiaramente molto molto femminile, che si dovrebbe, come dire, abbinare, diciamo così, a una ragazza dolce, elegante, docile, romantica e tenera. E invece abbiamo qui con noi un futuro tagliatore di teste. No, io sono tutto quello che hai detto prima. Ah sì, c'è anche tutto. Anche molto dolce. Però molto quando romantica. Mette il tailleur vi mangia vivi e dovete. No, scherziamo, scherziamo, però diciamo che a volte si dice che l'abito non fa il monaco, ma in alcuni casi bisogna anche imporre un certo ruolo. Perché Valentina, dici un po' cosa farai nella vita, ma già stai iniziando a fare? Sto facendo la pratica da avvocato, quindi prossimamente farò l'esame di stato. E quindi intanto comunque esercito. Esatto, cominci a capire un po' quel mondo lì. Qual è la tua aspirazione, se ce l'hai? Beh, intanto adesso finire qui e quindi... Cominciare. Esatto, okay. Cominciare a tutti gli effetti la professione. Però dico, vuoi, che ne so, aprire un tuo studio, specializzarti in un ramo particolare? E adesso mi sto specializzando in diritto di impresa, diritto commerciale. Ok, ok. Quindi poi seguirò credo quella strada. Quella strada lì. Quindi non hai scelto cose penalista, cose un po' più legate alle persone. Alimentari. E quindi comunque legate alle persone. Sì, beh, però più contesti aziendali rispetto che privati e personali. Ok, e come dire, un ambito che ti affascina o è un qualcosa che hai scoperto strada facendo? No, è una cosa che ho scoperto perché ho fatto la tesi in diritto penale, quindi ho fatto tutt'altro prima e adesso... Okay. È una cosa nuova. Ok, perfetto. E quanto hai studiato? Tantissimo, immagino. Sì. Quanto? Ho fatto i 5 anni, più dopo, ho fatto fuori corso perché non sono riuscita a finire in tempo. Vabbè, però ci sta. C'è stato tanto, ho fatto tutta la magistrale. Insomma, è un percorso bello lungo che però dà anche grosse soddisfazioni. Sì. L'esame più difficile che hai fatto? Diritto civile. Diritto civile, ora rispondono tutti così. Ma loro sanno bene perché mi hanno supportato in questi anni. Ah no, però nessuna compagna di università o di scuola, no? No, lei però va in un'altra università. Ah ok, ok, però sa cosa significa. Sì. Diritto civile che è stato simpaticamente passato studiando un tomo da... Da 1500 pagine. Vedi, lì volevo arrivare. 1500 pagine che fanno concorrenza solo a 20.000 leghe sotto i mari in quanto a pesantezza, anche un po' alla Bibbia come livello di intensità di pagine. Dai. Però la differenza è che 20.000 leghe sotto i mari, se vi dimenticate una pagina, non fa male a nessuno. Lì, se ve la dimenticate, è esattamente quella che vi chiederanno all'esame. Sega, esatto. Esatto, vi sega e non ve ne andate, non finite più, non finite più. E altra cosa interessante, insomma, che mi incuriosisce è da dove nasce questa tua passione o comunque sia questa tua idea di fare questo futuro lavoro. Beh, mi hai sempre affascinato fin dopo la maturità e quindi ho detto proviamo e poi in realtà mi ci sono trovata dentro perché mi hanno chiamata a fare la pratica forense e questo mondo mi sta piacendo. Bene, bene, ci fa piacere. Quindi è nata proprio in corso la passione. Bene, bene, però ci piace sempre parlare di queste cose per capire dagli occhi davvero quanto uno ce l'ha dentro, certo. E si vede che i tuoi ma parlano. Non ci sei dentro, no. No, però nel senso i tuoi occhi già parlano di questo lavoro, dai, di questa esperienza, quindi si sente che ce l'hai proprio addosso e che ti appassiona molto. Sì. E altra cosa importante da dire, oltre al tuo lavoro bellissimo, è quello che succederà tra poco, insomma, a fine estate. Sì, poco più di un mese, fine estate, dici un po'. Il 1° settembre mi sposo con Daniele. E infatti, come detto, stiamo festeggiando il nubilato. Esatto. Devo capire se l'entusiasmo è legato a Daniele o al matrimonio, ma lo sapremo. Loro sono già cariche. Beh, giusto, si portano avanti, si caricano a, come dire, in anteprima. Certo. In anteprima. 1° settembre con Daniele e vi conoscete da tanto? Ci conosciamo da 4 anni, da 4 anni e mezzo. Sì. Abbiamo fatto l'anniversario a maggio. Perfetto. E quindi... Vieni Lago nel cuore, giusto, giusto, lì ci sono anche messaggi d'amore per la città di Legnago, è giusto sottolinearlo. Quindi dicevi da 4-5 anni? Da 4 anni e finalmente dopo un po', dopo 3 anni e mezzo è arrivata la proposta. Oh, bene, bene, bene, bene. E tra l'altro quanto è vicino all'esame di cui parlavi prima? No, ancora. Ah, c'è tempo. Eh no, perché sennò insomma l'esame di Stato e il matrimonio erano due belli impegni grossi. No, c'hai tempo per organizzare, cioè insomma dedicare con la testa il giusto tempo ad ogni cosa. E dicevamo prima, l'hai accennato, e sei in compagnia di? Ci vuoi presentare anche le tue amiche? Allora, partendo qua da Sara, Lorena, Elisa e Alice. Ok, tutte amiche? Tutte amiche, sì. E lei è una delle mie due testimoni. Ok. Quindi Elisa. E la seconda, sei licenziata. No, seconda è mio fratello, io non potevo partecipare. Giusto, giusto. Pensavo si fosse licenziata dal ruolo di testimone per motivi strani. E ovviamente ha già preso 96 denunce senza saperlo. Le ha trovato capi d'accusa ovunque. Andando a scavare anche quando in prima elementare ha rubato le caramelle alla sua migliore amica. Qui, cioè, bello essere amici della Valentina, simpatica, dolce, quello volete. Però non potete sbagliare, sennò vi spacca in due la vita. Avete capito? Vedi che quando vuole le unghie le tira fuori. Volete dire qualcosa voi, Valentina? In bocca al lupo. Giusto, giusto, ci vuole. Già di poche parole. Ci vuole, beh, ma ci vuole ricordarlo. Niente, basta, a posto così. Tu vuoi dirci qualcosa su diritto civile? No. No, niente voleva. No. È una materia difficile, quindi la capisco. La capisco. Beh, ci mancherebbe altro. Va bene. Un bello scoglio. Però cioè capisco tutto. Ma descrivi la gioia quando fai il passo fuori dalla porta che hai passato l'esame. Secondo me è una delle cose più belle della vita. È indescrivibile. È una delle cose più indescrivibili della vita. Mi laureo. Esatto. Era la luce in fondo al tunnel. Cioè io l'ho vissuta una roba del genere mai più riprovata alla fine dell'ultimo esame. Cioè passato l'ultimo esame quando sai che ti manca solo la tesi. Oh, quell'esame lì, cioè me lo ricordo ancora, l'emozione di uscire dalla porta e dire oh cavolo, è fatta, è fatta. Cioè, penso che sia una cosa che non proverai più nella vita. Addirittura forse più della laurea stessa. No, però è una... Beh, ma è stato il mio ultimo esame di addirittura, sì, addirittura, sì, vedi, ho fatto quello. Però è una sensazione di liberazione, gioia, ansia che se ne va, carica negativa che se ne va, peso. Esatto, incredibile, incredibile, bello, bello. Sono cose da provare nella vita. Allora Valentina, vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare qualcuno? E vabbè, saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando, le mie amiche che mi hanno organizzato la del nubilato e anche quelle che adesso non ci possono essere, che c'erano oggi pomeriggio. Bene. E grazie a tutte. Bene, bene, grazie mille. Grazie a te, come sempre diciamo in bocca al lupo per tutto e spero vi fermiate ancora qui a divertirvi un po' con noi per qualche minuto, visto che ancora abbiamo modo di festeggiare insieme. E buona festa ancora a Valentina e in bocca al lupo, grazie, per tutto di nuovo. Ciao, buonanotte. Ciao.